Benvenuti a tutti, puntata numero 3 di NBA Week, la trasmissione settimanale del basket NBA su Radio Big World. Sia che ci state ascoltando di giovedì sera alle 21.30 nel flusso streaming di Radio Big World, sia che state ascoltando la trasmissione su YouTube oppure in podcast in qualsiasi momento della vostra vita, ovunque volete, in questo momento è mercoledì 7 dicembre, è il momento in cui sto registrando. Differentemente dalle puntate precedenti, parleremo della settimana intesa come insieme di partite, perché vedrete ce ne state veramente di strabelle, cercando un attimino di distruggere quella che è la struttura tenuta fino adesso, cioè parlare della partita della settimana, della prestazione della settimana o della squadra della settimana. Oggi andiamo anarchici, iniziamo da quelli che sono stati gli spunti di una settimana che per me è iniziata il 30 novembre, finisce ieri notte, cioè il 6 dicembre, e all'interno di questa c'è stato un sacco di partite belle, interessanti, un sacco di spunti, un sacco di ottime prestazioni. Iniziamo subito. 30 novembre, sfida Knicks contro Minnesota Timberwolves, probabilmente partita della settimana. 106-104 per i New York Knicks. Partita interessante perché i due sophomore più interessanti, cioè i due giocatori al secondo anno più interessanti della Lega, Karl-Anthony Towns e Kristaps Porzingis, che si sfidano per la prima volta quest'anno. E vedremo che la seconda volta non è stata così distante, perché il rematch è avvenuto il 2 dicembre. Però iniziamo da quello del 30. Knicks 106, Wolves 104. Karl-Anthony Towns va con 47 punti e 18 rimbalzi. Probabilmente una delle migliori prestazioni della settimana, anche se non la migliore, e vedremo dopo. Kristaps Porzingis risponde con 29 e 8 rimbalzi, 11 su 20 dal campo, 3 su 7 da 3, segna praticamente in tutti i modi, anche per mettere a tacere chi sostiene che Porzingis sia un giocatore ottimo nel catch and shoot, ma non così altrettanto ottimo nel crearsi soluzioni. Potete vedere gli highlights che saranno pubblicati anche nel nostro blog medium.com/NBA Week nel post relativo alla puntata che state ascoltando, con tutti i riferimenti video come sempre facciamo. Guardate quegli highlights e vedrete che Porzingis segna in tutti i modi, da fuori, da dentro, in penetrazione, in post. Giocatore secondo me stramigliorato, potenziale franchise player di domani. Ma in questo momento a New York c'è un maschio alfa, c'è un franchise player, si tratta di Carmelo Anthony. In questa partita segna appena 14 punti, arriva all'ultima azione, palla in mano in X, 104-104, con appena 4 su 15 dal campo. L'ultimo tiro però se lo prende lui, appunto, è lui il maschio alfa, a 2 secondi dalla fine, tiro di quoziente di difficoltà piuttosto alto, solo rete. New York vince così con il tiro decisivo di Carmelo Anthony. Carmelo Anthony che si ripete nel rematch tra queste due squadre la notte del 2 dicembre. Si ripete perché? Perché segna 29 punti, un 5 su 10 da 3 ed è il migliore in campo. I Wolves perdono ancora 114-118. Karl-Anthony Towns stavolta una prestazione un attimino sotto di livello, con 20 punti e 8 rimbalzi, comunque ottima prestazione. Bella prestazione in Minnesota anche per Zach LaVine, che chiude con 23 punti ed è uno dei tre prospetti interessanti di Minnesota Timberwolves insieme a Andrew Wiggins, ma sicuramente quello che quando è entrato nella Lega aveva molta meno pubblicità, aveva molto meno valore acclamato, e sta migliorando passo dopo passo, stagione dopo stagione. È anche un ottimo tiratore, non solo il grande schiacciatore che tutti conosciamo bene in quanto campione della gara delle schiacciate degli ultimi due anni. Porzingis molto peggio il 2 dicembre con 11 punti e 2 su 12 dal campo, comunque con Mello e con 24 punti, 5 assist e 5 rimbalzi di Derrick Rose, che io ancora amo chiamare Chicago's Finest, New York vince pure questa. E vedremo più avanti che New York ha veramente aggiustato il tiro e in questa settimana ha portato il suo record a un ottimo livello per quanto riguarda la classifica, quantomeno della Eastern Conference. Andiamo avanti, primo dicembre, probabilmente il vero partitone della settimana. Golden State Warriors contro Houston Rockets. Golden State alla Oracle Arena in casa perde 127-132. Questo perché? Perché il solito James Harden domina la partita, la domina sia da un punto di vista statistico che da un punto di vista mentale, perché se guardate il match capirete che Harden veramente ha il controllo di Houston a 360 gradi. Ci sono anche gli altri, però, a differenza di come avevo detto qualche puntata fa criticando il roster di Houston, mi devo un po' ricredere. Questa partita Harden chiude con 29, 15 rimbalzi e 13 assist. Ryan Anderson va con 29 punti e 5 su 10 da 3. Devastante. Eric Gordon con 23 punti. Dalla parte degli Warriors, grande prestazione di Kevin Durant. 39 punti, 13 rimbalzi, ma qualche mancanza nel supplementare. 28 di Stephen Curry, 20 di Draymond Green e 15 di Klay Thompson. Quello che succede però, l'ho un po' anticipato, la partita va ai supplementari, è una partita dove Golden State tira male da 3 punti, tira col 27%, anche se Houston non fa certo di meglio, però Houston ha appunto l'ottima prestazione all'arco di Ryan Anderson con 5 su 10 da 3. Quando Stephen Curry è costretto a abbandonare il campo per raggiunto limite di falli, Golden State si scioglie e perde la partita all'Oracle Arena. Abbastanza scioccante la questione, però meritatissima vittoria di Houston Rockets, che ci credono e se la giocano fino in fondo. Andiamo avanti, sempre il 2 dicembre, altra partita molto interessante, si tratta di Chicago Bulls contro Cleveland Cavaliers. Stavolta i Bulls la fanno i campioni in carica, appunto ai Cleveland Cavaliers. Sorprendenti in questo avvio di stagione, anche se poi nell'arco della settimana hanno avuto una grossa flessione Chicago Bulls, in questo momento sfruttano la flessione dei Cleveland Cavs. LeBron segna 27 punti, consegna 13 assist, ma dall'altra parte quella di Chicago, tripla doppia per Rajon Rondo con 15 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, 26 per Jimmy Butler, 23 con 11 rimbalzi per un ottimo Ty Gibson e 24 con 11 canestri dal campo per Dwayne Wade. Questa è la terza sconfitta consecutiva per i Cleveland Cavaliers, che hanno avuto una flessione piuttosto importante in questa settimana a dispetto di quello che avevo detto la settimana scorsa nominandoli quadrone della settimana. Terza sconfitta consecutiva, la sera prima, il primo di dicembre, avevano perso dai Los Angeles Clippers grazie all'ottima prestazione al trio di JJ Redick e al solito Chris Paul, che in appena 24 minuti aveva chiuso con 16 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Cleveland ha un periodo in cui non tira troppo bene, perde quasi sempre al rimbalzo, perde un sacco di palle, vince sempre nel confronto tra palle perse con la squadra avversario. Inevitabile il periodo di flessione, inevitabile la serie di sconfitte, esemplificato dalle prestazioni di un J.R. Smith agghiacciante sia per percentuale di tiro che per calo di concentrazione, e avrete visto tutti la sconfitta della settimana scorsa contro i Milwaukee Bucks, quello scandaloso in cui ha deciso durante un'azione difensiva di andare a salutare in panchina avversaria Jason Terry, il suo mandato a canestro praticamente solo. Tremendo J.R. Smith, che poi purtroppo lui si è anche recentemente infortunato, ma ne parleremo a breve. Altra nottata da ricordare, il 5 dicembre. Innanzitutto, grazie a Marc Gasol, che va in tripla doppia nella vittoria all'overtime di Memphis Grizzlies contro i Pelicans per 110-108. Marc Gasol gioca una grandissima partita, 28 punti, 11 rimbalzi, 11 assist. Prestazione della settimana? Assolutamente no. Prestazione della nottata? Neanche, perché il 5 dicembre è la nottata di Klay Thompson. Avrete visto sicuramente gli highlights della partita di Klay Thompson, che in 29 minuti segna 60 punti nella vittoria dei Golden State Warriors per 142-106 sull'Indiana Pacers. Segna 8 su 14 da 3. I Warriors segnano 142 punti, roba pazzesca. Ora i Pacers non sono certo la migliore difesa del mondo, però con un Klay Thompson che in 29 minuti ne mette 60, è ovvio che abbiamo il vincitore della nostra prestazione della settimana, e ovvio che si tratta di una delle più grandi prestazioni potenzialmente di sempre, se si considera anche il minutaggio. Contemporaneamente a questa gara ad Ovest, io mi dimentico spesso di San Antonio Spurs. San Antonio Spurs che il 5 dicembre vincono a Milwaukee per 97-96. Ottimo sistema di gioco come sempre, super organizzati, 21 punti di Kawhi Leonard, 15 di Paul Gasol, il fratello di Mark, 18 di LaMarcus Aldridge. Oltre a loro, ad Ovest c'è una squadra che sta impressionando, c'è un giocatore che sta impressionando, si tratta di Russell Westbrook, che il 5 dicembre va ancora, guarda caso, in tripla doppia, 32 punti, 13 rimbalzi, 12 assist nella vittoria di OKC su Atlanta. In questo momento è ampiamente dentro la tripla doppia di media stagionale, perché in questo momento ha delle medie pari a 31 punti per gara, 11 rimbalzi per gara e 11 assist per gara. Sta quasi per giungere, o quantomeno è sulla buona strada per giungere a quello che è il record che resiste da una vita di Oscar Robertson, di chiudere la stagione con una tripla doppia di media, una roba che a inizio stagione probabilmente nessuno dei veri analisti, e quindi non mi metto fra loro, nessun fans o nessuno tra i fans come io sono, mai si sarebbe immaginato di poter vedere. Nota importante per i Portland Trail Blazers, che passano con i Chicago Bulls. I Chicago Bulls in questo momento, appunto dopo la vittoria a Cleveland, hanno una flessione nella settimana. Passano con un ottimo Damian Lillard, ma con 6 giocatori in doppia cifra. Ritornano contemporaneamente alla vittoria a Cleveland Cavaliers in una partita che è andata su Sky, che potrete vedere se vi collegate all'account YouTube o Facebook di Belli 13 e seguite quelle che sono le indicazioni per andare a rivedervi la partita commentata in italiano da Flavio Tranquillo. Cleveland Cavs che nel rematch alla finale di conference dello scorso anno battono 116-112 Toronto Raptors. È la gara in cui si infortuna, come detto prima, J.R. Smith. Non so se casualmente o meno è vittoria per Cleveland, però non dobbiamo essere cattivi, povero J.R. Smith. LeBron ne segna 34, Kevin Love ne fa 28, Kyrie Irving ne fa 24, e quindi i tre protagonisti delle partite di Cleveland sono tutti e tre a referto alla grande, come abitualmente stanno facendo in stagione, quantomeno abitualmente fanno quando le cose vanno bene per Cleveland. Dall'altra parte Toronto, con 31 di DeRozan e 24 di Lowry, non ce la fa a portare a casa la W, come si dice. Piccola nota su stanotte, 6 dicembre, perché tra tutti risbuca uno di quei giocatori validissimi, a mio avviso, e per ora è rimasto un po' silente all'interno di una stagione anonima per i Washington Wizards. Si tratta di John Wall, 52 punti con 5 su 8 da 3, ma Wizards perdono 116-124 contro gli Orlando Magic. Povero Wall, non è la prestazione della settimana, perché appunto quella di Klay Thompson è inarrivabile. occhio a New York Knicks, l'abbiamo detto, hanno ingranato, quantomeno sembra che abbiano ingranato. Stanotte battono gli Heat 114-103 con il solito Carmelo Anthony da 35 punti. In questo momento hanno un record di 12-9. Starebbero ampiamente ai playoff, così come sarebbero ai playoff, anche se un po' per il rotto della cuffia, i Chicago Bulls, che anche stanotte hanno perso. Hanno perso contro i Detroit Pistons, malgrado i 32 punti di Jimmy Butler e malgrado i 19 di Dwayne Wade. In questo momento nella Lega abbiamo i Golden State Warriors con il miglior record dell'NBA con 18-3, seguiti dai San Antonio Spurs, dei quali appunto per adesso io parlo pochissimo, ma stanno continuando da dove avevano finito la regular season scorsa, li seguono veramente dietro, 18 vinte, 4 perse, e i sorprendenti Memphis Grizzlies che hanno un record di 15-8. Occhio e attenzione anche agli Oklahoma City Thunders, perché è vero che Westbrook va contro la doppia di media, è vero, come ho detto, che non hanno un organico senza Russell Westbrook di primo livello, ma comunque stanno mantenendo un record piuttosto dignitoso, 14-8. Proseguiamo velocemente, perché comunque a fare in questo modo si è parlato, o perlomeno ho parlato più del dovuto, e andiamo alla rimembranza della settimana. La rimembranza della settimana riguarda la stagione 1994. È vero, sto sempre lì, però secondo me sono stagioni molto interessanti. In particolare i playoff di quella stagione, e in particolare quella finale, New York Knicks contro Houston Rockets. In realtà, quei playoff furono playoff veramente interessanti, più a rivederli ovviamente che a viverli, perché quello era il primo anno in cui l'NBA si sentiva orfana di Michael Jordan, che si era ritirato alla fine della stagione 1993. C'era molta attenzione sul gioco, c'era molto dubbio sul fatto che la Lega potesse perdere di appetibilità senza la sua stella principale. In realtà, a riguardare indietro oggi, vediamo che era una Lega piena di stelle che oggi vengono osannate periodicamente quando si pensa al passato. In quel momento non lo si percepiva. Sono playoff spettacolari, ad esempio il primo turno subito un sorpresone, i Seattle Sonics, che sono la squadra che ha il miglior record della regular season, perdono dopo essere andati in vantaggio 2-0 contro i giovanissimi Denver Nuggets di un giovanissimo di Kembe Mutombo, e perdono 3-2. Ad ovest, in semifinale di conference, Houston Rockets piegano i favoritissimi Phoenix Suns, che speravano di tornare in finale dopo l'esperienza dell'anno precedente. Serie spettacolare, si chiude 4-3 con il famoso bacio della morte di Mario Ely. Se non vi ricordate o non sapete cos'è, andate pure a cercarlo su YouTube. Ad est non è da meno. Chicago Bulls contro New York Knicks è semifinale di conference, ma è una serie spettacolare. Si picchiano dall'inizio alla fine come abitudine nelle sfide tra Bulls e Knicks di quegli anni e degli anni precedenti. I Knicks hanno la loro rivincita, anche se nei Bulls, come detto, non c'era Michael Jordan. Vincono la serie 4-3, se ne vanno in finale di conference e sono altre botte, altra tensione, perché Indiana Pacers, New York Knicks, questa meriterà una rimembranza della settimana in futuro sicuramente, soprattutto quando parleremo, perché dovremo parlarne, di uno dei giocatori a mio avviso più eccitanti nella storia del basket NBA, che è Reggie Miller. Reggie Miller in questa serie fa di tutto, i New York Knicks però piegano i Pacers, vincono 4-3 e tornano in finale NBA. Considerate, siamo nel 94, i Knicks non torneranno in finale NBA se non nella stagione del lockout, quella super corta, quella del 99, in cui perderanno contro i San Antonio Spurs del giovane Tim Duncan. Ma erano altri Knicks, questi sono i Knicks di Patrick Ewing. Nel 99 erano i Knicks orfani di Ewing, perché Ewing, avendo lottato con le unghie e con i denti per arrivare fino in fondo, non riesce a giocare la finale perché è infortunato. Quelli erano i Knicks di Latrice Sprewell e di Larry Johnson, diciamo, perché non è che abbia mai fatto grosse cose, ma soprattutto di Allen Houston. Sono Knicks che non competono. Questi Knicks qua invece contro gli Houston Rockets competono, e come. La serie finale 94, a mio avviso, a rivederla oggi, è una delle serie più belle mai esistite nell'NBA. Ricordo ai tempi però è al centro di grosse polemiche a causa dei punteggi bassi, perché sono comunque tutte partite, 7 partite, ovviamente si chiude 4-3 per gli Houston Rockets in 7 gare. Nessuna squadra in nessuna di queste 7 partite va oltre i 100 punti. Oggi si griderebbe al miracolo, visto la totale inesistenza delle difese, soprattutto in regular season. Al tempo la cosa preoccupava notevolmente l'NBA. Gara 1, una partita abbastanza gestita da Houston, che arriva comunque in finale con i favori del pronostico. Attenzione, erano altri tempi, la sfida di queste finali è Hakeem Olajuwon contro Patrick Ewing, centro contro centro. Interessantissimo pensare a quello che sono oggi i centri, i pochi rimasti, che spesse volte se ne vanno a tirare da dietro l'arco, quelli che erano allora, che lottavano veramente sui tabelloni. In questo caso si parla di un Hakeem Olajuwon, che era uno dei centri che ha avuto più movimenti in post sotto canestro della storia dell'NBA. l'altro era Patrick Ewing, che non disdegnava invece andare a prendersi un bel terreno dalla media, che oggi è dato per scontato nei lunghi, ma che ai tempi comunque era abbastanza una particolarità. Gara 1 andò subito agli Houston Rockets, 85-78, con il top scorer Hakeem Olajuwon. Gara 2 invece ribalta il vantaggio campo New York, 83-91, sempre Hakeem Olajuwon top scorer, però New York tira molto meglio, va col 52%. La sfida è molto interessante tra Hakeem Olajuwon e Patrick Ewing, apparentemente statisticamente sempre dominata da Hakeem, ma New York nelle vittorie ha sempre quel che di grinta in più che la contraddistingue, in particolare tre giocatori a mio avviso da ricordare in quegli anni: Charles Oakley, l'ala grande, uno dei giocatori più granitici e ignoranti della storia dell'NBA, John Starks, che probabilmente se New York avesse vinto sarebbe stato l'MVP di questa serie e anche di quel playoff, non un giocatore tecnicamente eccelso ma un giocatore di solo e unico cuore, e oltre a loro Derek Harper, giocatore che arrivò in quella stagione a New York e che con la sua cattiveria e con la sua capacità di poter tenere il polso della squadra condusse New York in finale e la condusse fino a gara 7. Serie, appunto, dicevamo che si alterna: gara 3 va a Houston, gara 4 se la vincono i New York Knicks, gara 5 New York vince 91-82 ed è la gara apparentemente della svolta, perché New York ha in questo modo l'occasione di gestire gara 6 e di vincerla. Invece è la parte della svolta, ma per Houston, che vince 86-84, John Starks gioca un partitone assoluto, ma il suo tiro della vittoria, quello da 3, viene deviato da Hakeem Olajuwon e cambia il destino della serie. Se fosse entrato, New York sarebbe stata campione NBA. Invece in questo modo si va in gara 7, che Houston gestisce in casa con molta tranquillità, apparentemente senza storia. Eroe a sorpresa, Vernon Maxwell, che è una sorta di malato mentale che gioca negli Houston Rockets, tant'è che l'anno seguente, nel repeat della vittoria di Houston, ne abbiamo parlato due settimane fa, contro gli Orlando Magic, non sarà neanche della partita né della serie finale perché è messo fuori squadra. In questa serie è lui una delle chiavi. In gara 7 è lui quello che segna i tiri da 3 decisivi. Altra chiave importante per quella Houston fu il giovanissimo, al tempo rookie, Sam Cassell, che poi si è creato una carriera NBA sulla sua capacità di avere gli attributi nei momenti giusti. Logicamente questi Houston Rockets avevano Hakeem Olajuwon nel top, probabilmente del suo splendore in tutta la sua carriera. È lui ovviamente l'MVP, lo sarà anche la serie finale seguente, quella appunto, come abbiamo detto, vinta contro gli Orlando Magic. Quella serie finale lì c'era pure Clyde Drexler, in questo caso la spalla di Olajuwon era l'ala grande Otis Thorpe, anche lui granitico, importante al rimbalzo, gran bel giocatore, gran bel comprimario, sono quelli secondo me i giocatori dietro al quale poi si costruiscono le vittorie. Fatto sta, playoff interessantissimi, pieni di spunti, andate a rivedervi su YouTube la serie Phoenix-Houston, la serie Bulls-Knicks, la serie del primo turno Sonics-Nuggets, che è interessantissima, e poi le partite di finale, andate a rivedervi pure quello che ho postato o che sto per postare sul nostro blog medium.com/NBA Week, dove appunto ci sono i ritaglini della descrizione delle partite e i tabellini di questa serie finale ripresi direttamente dall'American Super Basket dei tempi. Bene, oggi ho veramente strasforato, quindi chiudo qua, ci sentiamo la settimana prossima per NBA Week, sempre su Radio Big World. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, ci risentiamo appunto tra una settimana.